abbiamo finalmente qui al telefono Davide degli Umanoira. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie di essere qui con noi, ospite ai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Innanzitutto ti vorrei chiedere, Umanoira, come mai questo nome, questo progetto e come è nato questo progetto? Ma senti, questo è un nome che abbiamo scelto all'incirca 15 anni fa, quando più o meno è nato il progetto. E, è un capitolo della Montagna Incantata di Thomas Mann e parla della soggettività del tempo. Diciamo che negli anni abbiamo cercato di cambiarlo diverse volte, ma eravamo troppo affezionati a quello che rappresentava. Ah, però. Però beh, è un riferimento insomma abbastanza importante. Sì, sì, all'epoca eravamo colti. Abbiamo perso l'abitudine. Okay. Poi è scomparso. Niente. Sì. Però bello comunque il nome, insomma, che qualcuno si chieda come mai questo nome. Quindi è sempre bello dare una risposta colta. E come mai, cioè tu e Riccardo, da dove è nata questa collaborazione? Come avete iniziato? Diciamo che io e Riccardo ci siamo conosciuti sui banchi di scuola. È nata lì prima un'amicizia, poi questa passione per la musica. Quindi possiamo dire che artisticamente siamo cresciuti insieme. E non solo, comunque. Abbiamo fatto anche a botte diverse volte, insomma. No, nell'arco degli anni abbiamo cambiato tante formazioni. Diciamo, noi siamo sempre stati il nucleo, la base del gruppo. E, fino ad arrivare a questo progetto dove praticamente soltanto io mi sono occupato della parte musicale e lui ha scritto tutti i testi. Quindi rispetto al passato, dei dischi precedenti, c'è stato un cambio anche nella scrittura delle canzoni, dove prima ci si trovava con tutta la band e buttavamo giù prima la musica e poi il testo. Invece ora siamo solo io e Riccardo che facciamo tutto e poi con la band siamo dal vivo, ci presentiamo con la band, diciamo. Ecco, a proposito dei vostri ascolti, no? La musica che ascoltate, quali sono poi quelli che avete messo nelle vostre canzoni, le vostre influenze? Diciamo che noi siamo nati con il rock italiano, tipo ascolti tipo Marlene Kunz, After Hours. Ok. Però nell'arco degli anni, insomma, ci siamo aperti a tanti generi, fino ad arrivare al post rock americano. Gruppi come Ron Caballero, Tortoise, quello è stato il nostro periodo più pazzo, diciamo. E poi negli ultimi anni ci siamo riavvicinati molto alla musica italiana, anche per l'esigenza comunque di arrivare a un pubblico più vicino a noi. Certo, anche sì, se sì. Noi abbiamo sempre cantato in italiano, quindi per noi quella era la prima cosa più importante. Però mentre prima musicalmente cercavamo un approccio più rock, negli ultimi anni abbiamo sentito l'esigenza di fare qualcosa di più orecchiabile, perché sono cambiati i nostri gusti e quindi di conseguenza ci è venuto naturale questo avvicinamento al pop cantatoriale. Ci sono tantissimi gruppi che ci piacciono, tra cui anche Little Circus, però andando nel passato, Lucio Dalla, Battisti, ce ne sono veramente tanti. Cerca di un posto migliore, il più caldo e il remoto, il più giusto in cui mettere il cuore. Sono anni che dici che bere tisane ti aiuta a dormire, non ti accorgi che tanto poi passi la notte a pisciare. Con quest'ansia mi hai detto le sveglie le puoi anche buttare. Ti ho abbracciata non stretta perché so che vuoi respirare. E spiegato di seguire il cuore al formicolare. Nel tuo braccio sinistro se proprio non vuoi più pensare. A sentirti era facile almeno provare e tentare. Di non spingere le porte con sopra scritto tirare. Imparare a contare, poi nel caso parlare. E morire d'amore per chi ha saputo aspettare. Paradisi mai visti. Pensando che poi il posto posto giusto sei tu. Mi hai baciato da sempre come quando assaggi il ragù. Mi hai aspettato da sola come quando uno vola, mentre cadevo a picco con tanto di capriola. E col tempo ti giuro ho imparato perfino a sognare, aspettare quest'alba che sembra voler arrivare. Non pensare al futuro anche in un giorno duro, a sentirmi un po' strano ma pronto a tenerti per mano. E perché non dovremmo affidarci al nostro domani, come i ciechi lasciarsi guidare soltanto dai cani. Come l'uva col vino, come a San Valentino, come quando mi hai detto amore aspettiamo un bambino. Paradisi mai misti, giungle e savane, un'aurora boreale, ti continuo a cercare. Paradisi mai visti, giungle e savane, un'aurora boreale, ti continuo a cercare. L'ultimo album si chiama Sorrisi e Canzoni, ma anche esatto. Qui come mai questo nome? A me viene subito in mente la rivista. Sì, sì, sì, in effetti cercavamo qualcosa di estremamente popolare, e quindi abbiamo sicuramente pensato che la rivista avesse questa cosa. Però fondamentalmente per noi rispecchia quello che per noi è la musica, cioè la ricerca delle canzoni, lo studio, approfondire quell'aspetto, ma soprattutto la parte ludica, cioè quello che per noi la musica rappresenta anche il divertirsi e il sorridere. E quindi abbinando queste due cose la scelta di Sorrisi e Canzoni è stata assolutamente la migliore. Certo, e invece parlando del vostro altro singolo Tutto Ok Ma Ti Devo Parlare, anche qui un titolo sì. particolare, sì, dite sì, a un certo punto Riccardo per i titoli è è il maestro sì sì sì dite a un certo punto a Carnevale mi vestirò da Tutto Ok Ma Ti Devo Parlare, spiegaci un po' questa questo cosa, questo travestimento. Sicuramente Riccardo che ha scritto il testo la saprebbe spiegare meglio, anch'io non riesco bene a spiegarmi bene il senso della è un modo un po' per dire, cioè cerco di essere qualcosa che non sono, almeno io la interpreto un po' così. Poi per riferimenti più particolari vi farò chiamare da Riccardo. Perfetto. grazie Davide di essere stato ospite ai nostri microfoni. Grazie io a voi. Direi allora a questo punto di far sentire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko appunto Tutto Ok Ma Ti Devo Parlare. Grazie. Benissimo. Ancora. Ciao Davide, grazie. A voi. Ciao ragazzi. Ciao. Appena fuori città, adesso si è tolto i vestiti, credo mi mangerà. Non penso che sia io a dovermi fare capire. Non so se è perché ho poco tempo, perché non ho niente da dire. Comincerò a martellarmi le palle come il tipo sulle 50 lire. E pa, pa, pa, pa. pazienza mio amore. Sei detto no, non sei giù, ma non portarmi rancore. A carnevale ti giuro mi vesto da tutto ok, ma ti devo parlare. E pazienza mio amore. Se sei come una costola rotta non so respirare. C'è un diavolo che mi ha preso appena fuori città. Adesso mi ha tolto i vestiti, voglio morire qua. Non so se è questo il modo in cui doveva finire. Ho chiuso piano piano gli occhi e poi ho cominciato a colpire. Continuerò a martellarmi le palle come il tipo sulle 50 lire. E pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pazienza mia. Hai detto no, non sei tu, ma voglio ancora giocare. A carnevale ti giuro mi vesto da, non ho niente, fa come